Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. E se io vi dico che fra un po' potremmo andare in giro con 20 impronte digitali? È così. Benvenuti e benvenuti a Mebius, i titoli e poi iniziamo. Le impronte digitali in tre dimensioni e caricate sopra un chip. Le porteremo sempre con noi per una privacy super garantita. Come simulare un polmone umano mettendolo su un circuito elettronico. I fisici si interessano di rischio finanziario, operativo e di credito. Sempre più spesso la fisica, che studia la natura delle cose, si occupa di economia. Da Icaro ai fratelli Wright, passando per il conte Zeppelin, un libro racconta la storia del volo umano fino agli aviatori della Grande Guerra. Il Ciaff dai Furlans è un libro di neuroscienze scritto in lingua friulana e dedicato ai vantaggi del bilinguismo. Viviamo in un'epoca di controlli delle persone, che ci piaccia o no, dagli aeroporti agli ingressi, molti uffici e palazzi vari. Avere controlli efficienti e rispettare la privacy non è affatto un binomio facile. Parlo di questo con Fabio Martinelli. Buonasera Martinelli. Buonasera. Dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Allora, credo che parleremo di un tre possibilità diverse, sempre che hanno a che vedere con l'identificazione. Parleremo di impronte, parleremo di riconoscimento facciale, di riconoscimento appunto tridimensionale. Incominciamo pure dalle impronte. Al centro dell'attività che voi state svolgendo c'è comunque sempre questo della riservatezza, no? Sì, all'interno del gruppo sicurezza del CNR esistono una notevole serie di applicazioni. Tra le tante applicazioni abbiamo una ricerca sulla biometria e su quelle che sono definite le privacy enhancing technologies, cioè tutte le tecnologie che possono aiutare a migliorare la privacy durante le nostre interazioni con il mondo digitale e il mondo fisico. Per esempio il riconoscimento delle impronte digitali è ormai una tecnologia molto matura, è veramente possibile identificare con precisione quasi al 100% una persona dalle sue impronte. E quando parlo di identificare, in realtà ci sono due concetti: c'è il concetto di autenticazione, cioè io voglio dimostrare qual è la mia identità, sì, e il concetto di identificazione, in cui essenzialmente si hanno a disposizione una serie di impronte digitali e si vuole riconoscere, identificare il possessore. Sono due concetti diversi. Sì. Diciamo quello che si usa essenzialmente al controllo accessi è esattamente il fatto che io dichiaro di essere Fabio Martinelli e per poterlo provare dimostro che ho una certa impronta digitale. Questo è il concetto di autenticazione. Il controllo accessi è quello molto semplice: l'utente deve dimostrare che la sua impronta corrisponde a un'impronta o memorizzata in un database centrale o per esempio che può portare lui stesso con sé. Come, esatto, un po' come quando noi abbiamo la nostra carta d'identità, è un documento generato da un comune, sì, cioè il nostro nome associato alla nostra foto. Qui ci sono appunto, c'è un sistema classico che è quello di confrontare il dato con un grande archivio permanente dove ci sono questi dati, oppure qui invece voi suggerite un passo in avanti perché si riesce appunto a rispettare maggiormente i dati di segretezza di una persona, insomma. Come avviene questo? Ma è essenzialmente chiaro, quando io appongo la mia impronta digitale, diciamo il mio dito, su un lettore, quello che ne viene fatto è l'estrazione del template. Il template è lo schema, la posizione delle cosiddette minuzie. Se uno guarda la propria impronta digitale vede che di fatto con un lente di ingrandimento è fatta da una serie di creste e valli. Sì. Alla fine delle creste ci possono essere delle biforcazioni o delle terminazioni, quelli sono punti di singolarità. Si va a vedere dove sono questi punti e, riconoscendone un numero elevato, può essere da 7 a 17, si riesce a confrontare due template, due impronte. Quando il numero di match è elevato, possiamo dire che corrispondono alla stessa persona. Quindi, con 7 punti si è sicuri che si tratta della stessa persona. Dipende dall'applicazione, in applicazioni forensi diciamo si vuole anche arrivare a 17. Dipende chiaramente dall'applicazione. Se io voglio controllare l'accesso per esempio al mio computer, probabilmente 7 passi. Se volete provare che ho ucciso qualcuno, probabilmente ce ne sarebbe bisogno di un numero maggiore. Più cauti, certo. Bisogna essere molto più cauti. Questo tipo di cosa però dove sta il template? Perché quello che può accadere è che esiste un template centralizzato dove io mi riconosco, c'è una richiesta di confronto con questo template lontano e a quel punto il mio template sta da una parte che è accessibile anche ad altri. Tecniche che sono state utilizzate da altri, come sono presenti anche il passaporto elettronico se vogliamo, ma noi abbiamo contribuito ad alcune tecnologie in questa direzione, sono quelle in cui io in realtà porto con me il mio template che è firmato digitalmente dall'entità preposta, per cui localmente faccio questo controllo, quindi io offro questo certificato digitale dove c'è scritto ad esempio semplificando il mio nome e il mio template, faccio verificare alla terza persona che il mio template che appongo, il template live, è esattamente quello che è nella mia smart card e dopodiché non c'è nessun immagazzinamento centralizzato di questa informazione, quindi l'informazione è sempre con me e io posso essere diciamo relativamente tranquillo che una cosa che mi riguarda così da vicino, la mia impronta digitale, non viene rilasciata a terzi. Controllore e controllato sono entrambi soddisfatti del risultato. La speranza è questa. Ecco, invece ci sono delle situazioni nelle quali bisogna controllare un gruppo abbastanza vasto di persone, mentre per esempio entrano in uno stadio e pare che voi abbiate pensato particolarmente a questo tipo di applicazione con tutto il controllo dei famosi hooligans, insomma, che potrebbero infilarsi in uno stadio nonostante sia stato deciso che invece quella particolare persona non ha più diritto ad entrare. Qui il problema è di riconoscere un volto in mezzo a tanti, in movimento, come si può fare? Sì, questa è un'altra attività che viene svolta qui da un altro gruppo del CNR, è un'attività abbastanza importante. Questa è un'attività in cui si vuole realmente identificare delle persone che non vogliono essere identificate, immaginiamo appunto gli hooligans. Quello che avviene è che da una serie di telecamere che in qualche modo riprendono una serie di scenari, si può identificare ad esempio se una persona appartiene a un certo elenco, qui probabilmente un elenco che viene fornito dall'autorità competente. L'altra cosa interessante è che una volta che io riesco a identificare una persona all'interno dello stadio, posso anche verificare come si è mossa quella persona all'interno dello stadio, quindi si è mossa in settori dove non poteva andare. Quindi queste possibilità di tracking effettivamente esistono, è chiaramente una cosa abbastanza delicata perché può essere utilizzata sia per motivi diciamo buoni, la protezione degli hooligans, ma anche per altri tipi di motivi. Eh sì, un po' sì, certo. Queste cose funzionano, le abbiamo sviluppate anche per conto della polizia scientifica e ce ne sono chiaramente altre in giro, ma sono realmente attività che noi riteniamo importanti e che si basano sul riconoscimento di similarità tra volti. Sembra abbastanza sorprendente, ma insomma, se io penso di avere di fronte una persona in un passaggio, per esempio, come quelli degli aeroporti, insomma, che guardi in faccia, che è totalmente identificabile, è chiaro che i confronti sono facili. Invece qui siamo in presenza di una tecnologia che mi può dare dei dati attendibili su quella persona anche se ha su un cappello, degli occhiali, insomma, e se è in movimento. Si riesce ad ottenere un'attendibilità? In realtà non è così con le tecnologie che stiamo sviluppando ora. In realtà non riusciamo a riconoscere questa persona con le tecnologie che abbiamo sviluppato se anche un cappello o una cosa del genere. Quello che vorremmo in effetti è telecamere. Potrebbe essere semplificata la cosa mettendo delle telecamere ai tornelli in maniera tale che le persone si chiede di togliere il cappello o togliere gli occhiali da sole. Esistono delle tecnologie chiaramente che permettono anche di fare scanning 3D dei volti al di là della sovrastruttura che viene messa, ma sono molto costose e sono invasive. Difficilmente. Se vogliamo si ricorre di fatto ai body scanner. Sono una tecnologia però molto, molto più invasiva rispetto a quello che sviluppiamo noi, che sono basate essenzialmente su telecamere normali. Ho capito. La differenza tra un volto in 3D e un volto insomma in bidimensionale con un paio di foto può essere significativa? Può essere molto significativa, in effetti la precisione che noi riusciamo a avere da un video è buona, soprattutto perché una persona poi avendo diciamo della stessa persona immagini nel tempo è più facile che in un certo momento metta la sua faccia nella posizione in qualche modo che non ci permette di riconoscerla con quello che è il nostro database, con dei dati 3D si acquisiscono molti più punti di riferimento e questo rende molto più facile determinare con precisione se una persona è esattamente quella che stiamo cercando. Però queste tecnologie 3D attualmente si usano nei passaporti e diciamo che il target di quello che viene chiamato false acceptance rate 0,25 a livello di progetti di ricerca, per quello che ci consta, non sono attività che facciamo noi direttamente, siamo allo 0,50, che vuol dire che dobbiamo ancora migliorare un po' per riuscire ad arrivare alle prestazioni che i governi ritengono ragionevoli per poi metterle in pratica su situazioni di massa. Diciamo. Fabio Martinelli, grazie e buona ricerca. Grazie anche a voi. Il diametro è 45 metri, la profondità è 16, si trova nel deserto e Google l'ha ovviamente fotografato, lo sappiamo, no? Ormai Google Earth, Google Terra l'ha fotografato tutto questo nostro pianeta, si può dire metro per metro, e così può accadere che un ricercatore del Museo di Storia Naturale di Milano, sorvolando il pianeta con un computer collegato a Google, ecco, può accadere che individui quella roba lì, 45 per 16 metri, un cratere generato da un meteorite, un cratere di impatto, si dice. Cratere che stava in pieno deserto in Egitto, zona meridionale del paese. Vincenzo De Michele è lui, ricercatore, come lo ha visto, si è subito insospettito perché la forma non poteva essere quella di un consueto buco nel terreno. Si è formata una piccola spedizione italo-egiziana e sono andati sul posto. Perfetto, era così. Cratere da meteorite, quelli piccoli sono rarissimi, ne abbiamo 15 individuati in tutto il pianeta, hanno analizzato i resti del meteorite classificandolo come ataxite ricca in nichel. Doveva essere un bel sassone di circa 1,30 m quando si è arrivato al suolo, e qui si può anche in questi casi calcolare la velocità. Sono usciti 3,5 km al secondo, ovvero 13.000 km orari. Ci pensate, guardate che un proiettile di fucile di precisione viaggia intorno ai 1.000, questo era largo quasi 1,5 m e viaggiava 13 volte più veloce. La rivista Science ha dedicato alla scoperta una pagina meritata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Avete problemi con la cervicale? Di questo si parlerà nel nostro gioco, il quiz. La domanda: ha più vertebre cervicali il topo o la giraffa? Prima possibilità. È vero che il topo è ben più piccolo della giraffa e quindi pure le sue vertebre sono più piccole, però la giraffa ne ha una in più e scriverete giraffa. Seconda possibilità, hanno lo stesso numero, scriverete uguale. Terza e ultima, parrà pure strano, ma ne ha di più il topo e ci scriverete topo. Dove? Al solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Quei temerari sulle macchine volanti, piccola storia del volo e dei suoi avventurosi interpreti. L'ha scritto Paolo Maggionami ed è stato edito dalla Springer. Di questo libro parliamo fra poco. In collaborazione con IBS.it. Un polmone sul chip o un chip di polmone? Non sono un po' indeciso, Paola. Adesso scegliamo insieme come metterla. Paola Rebusco da Boston, nostra corrispondente negli Stati Uniti. Ciao Paola. Ciao, buonasera. Qui forse sarà bene che facciamo una premessina, perché con il termine chip si può intendere, come in effetti è spesso e volentieri insomma usata questa definizione, il chip, insomma il microcircuito, però e quindi qualcosa di elettronico, di digitale, però si intende anche in altri ambiti di ricerca qualcosa di molto, un funzionamento che può essere ristretto in uno spazio molto piccolo, no? Su un supporto molto piccolo. Sì, un microprocessore. Un microprocessore non necessariamente elettronico, diciamo. No, esatto, infatti in questo caso parliamo di un microprocessore ibrido, direi. E infatti di che si tratta? È un dispositivo microscopico, appunto, beh, insomma, delle dimensioni di una gomma da cancellare, che imita il comportamento di un polmone vivente. Di un polmone umano, questo è veramente singolare. Una gomma da cancellare, ma scusa, vuol dire che ha una sua respirazione? Che effettivamente si contrae ed espande come un polmone, è tutto controllato meccanicamente, e è un dispositivo ingegneristico, ma che utilizza dei tessuti viventi. Ecco, sì, che tipo di, che cosa è fatto? Beh, allora, ha una struttura, diciamo, a panino, e in mezzo c'è, invece di prosciutto, insalata e pomodoro. Ah, quindi un tramezzino a più strati, vuoi dire? Ho capito. Un tramezzino a più strati, sì. Mm. Abbiamo un tessuto fatto del tessuto degli alveoli, che sono la componente più piccola dei polmoni. Mm. Poi c'è una matrice permeabile in mezzo. Sì. Dopodiché c'è uno strato fatto del materiale dei capillari. Sì. Ok. Ed il pane di questo sandwich. Le due fette. Da un lato è costituito da una sacca in cui passa l'aria e dall'altro da una sacca che costituisce un liquido che imita il sangue. Eh sì, quindi in effetti è vero, riproduce esattamente quello che è la macchina polmonare nella sua interezza, con elementi sia artificiali che invece di origine proprio biologica. Sì, esatto. E per ora quello che stanno facendo sono degli studi sulle reazioni di questi tessuti a degli invasori, ad esempio a delle tossine, a dei batteri, e non sono ancora riusciti a imitare lo scambio di gas che effettivamente avviene. Sì. Nei polmoni, che è la loro funzione principale. Certo. Senti, ma il senso di tutto ciò è quello di poter avere degli organi umani funzionanti sui quali fare sperimentazione, perché certo invece sugli umani, quelli veri, non è giustamente possibile. Un po' questo è l'obiettivo? Sì, è un modo molto sicuro e conveniente anche economicamente per fare esperimenti. Come si chiama questa scienza della miniaturizzazione degli organi umani? E non so se ci sia un nome per la scienza in sé, però i ricercatori che hanno fatto questo lavoro sono di un istituto dell'Università di Harvard che si chiama Istituto di Ingegneria Ispirata Biologicamente. Ah, ingegneria ispirata biologicamente. Direi che è una definizione che torna perfettamente, no? Eh sì. E tra l'altro stanno anche lavorando su un progetto in cui cercano di ricostruire un fegato su un chip. E poi una delle sfide sarà quella di far comunicare il polmone con il fegato, per esempio. Lentamente si può andare a costruire effettivamente miniaturizzato un corpo umano oppure un insieme di importanti organi che comunicano tra di loro un pezzo di vita reale molto significativo. Proprio un modo per esplorare gli organi umani e le loro interazioni. Grazie Paola, ciao. Ciao. Si possono usare alcuni strumenti di indagine della fisica nel campo dell'economia, non intendo strumenti, insomma, apparecchiature, microscopi elettronici per osservare i nostri risparmi, no, intendo strumenti teorici. Beh sì, sembra possibile. Ascoltiamo Barbara Callavotti. Parliamo di fisici, anzi di econofisici. Sappiamo da tempo che i laureati in fisica, e per la verità anche quelli in matematica e in ingegneria, possono utilizzare ciò che sanno in altri campi, in particolare nell'economia. Ma cosa fanno in questi settori i fisici? E soprattutto, in tempo di crisi, possono aiutarci a pensare una nuova e più sicura economia? È con noi Roberto Bellotti, fisico all'Università di Bari. Buonasera. Buonasera. Roberto Bellotti è principalmente impegnato nell'esperimento PAMELA, che è un esperimento dedicato allo studio delle particelle cosmiche e in particolare di antimateria e materia oscura. Ma lui si occupa appunto anche di econofisica. A proposito, che cos'è l'econofisica? Dunque, l'econofisica è una disciplina nata circa 10 anni fa che ha come obiettivo lo studio e l'applicazione dei sistemi finanziari utilizzando le metodologie sviluppate nella fisica. Ecco, lei mi diceva che l'econofisica in particolare si occupa di rischio finanziario, rischio di credito e rischio operativo. Quindi andiamo con ordine e vediamo che cos'è il rischio finanziario, che poi è il settore tradizionale in cui i fisici che lavorano nel settore economico trovano impiego. Sì, il rischio finanziario è il rischio legato alla fluttuazione dei prezzi dei prodotti finanziari, come per esempio le azioni quotate in borsa. È il settore in cui i fisici si sono dedicati principalmente perché i dati sono pubblici e quindi è molto facile fare sperimentazioni in questo ambito. È un settore molto importante, come diciamo tutti sanno, in quanto i mercati finanziari governano attraverso le loro fluttuazioni, anche scelte politiche importanti dei governi, come i fatti attuali ci stanno dimostrando in questi giorni. I fisici cosa fanno? Cercano di prevedere quali saranno le tendenze per il futuro valutando i parametri del passato? Un aspetto molto importante da considerare è la quantità di capitale che deve essere messa da parte per far fronte a possibili perdite inaspettate del mercato finanziario, diciamo meglio a possibili fluttuazioni. Quindi lo scopo dei fisici è quello di calcolare con precisione a quanto equivale il rischio per un certo profilo di investimento, in maniera da poter determinare qual è la quantità di capitale da mettere da parte, che è appunto il capitale di vigilanza. E invece il rischio di credito cos'è? Allora, il rischio di credito è legato alla probabilità che un certo prestito, erogato per esempio da una banca, non venga restituito. Questa probabilità viene definita come probability of default ed è un valore che va calcolato. Anche in questo caso è necessario calcolarlo in modo che la banca possa accantonare le cifre opportune per far fronte a questi eventi inaspettati e soprattutto è molto importante che la banca possa avere degli strumenti per decidere a chi erogare il prestito e quanto far pagare il capitale. Il prezzo del capitale, il prezzo diciamo del denaro in questo caso è legato appunto al rischio che chi contrae il prestito possa avere. L'ultimo nato nei settori di cui si occupano i fisici in economia è il rischio operativo, è l'ultimo nato anche perché è stato per così dire inventato da poco. Che cos'è? Allora, il rischio operativo è stato introdotto da pochissimi anni. È appunto un rischio legato a inadeguatezza dei processi nei sistemi bancari, quindi tutto ciò che ha a che fare con il funzionamento della banca, che può generare perdite inaspettate, rientra in questa categoria di rischio. Anche per questo, diciamo, Banca d'Italia prescrive alla banca di accantonare dei capitali di vigilanza che vanno opportunamente calcolati. In questo ambito il ruolo dei fisici è particolarmente importante perché la normativa di Banca d'Italia prescrive sia la possibilità di accantonare una cifra standard, sia la possibilità per la banca di sviluppare dei modelli cosiddetti proprietari, in cui ogni banca sviluppa e valuta per sé il proprio profilo di rischio. Siccome la valutazione di questo profilo di rischio è molto complessa, i fisici possono partecipare a questa attività appunto sviluppando modelli quantitativi particolarmente sofisticati. Perché ovviamente lo scopo della banca è accantonare la cifra più contenuta possibile in modo da poter investire il resto. Esattamente, da una parte bisogna garantirsi che la banca abbia il capitale di vigilanza necessario per coprire le possibili perdite, dall'altra non si vuole immobilizzare del capitale che la banca può utilizzare ad esempio nel settore del credito. Che strumenti usate proprio dal punto di vista di voi fisici? Diciamo la disciplina di partenza è sicuramente la meccanica statistica, quindi lo studio di sistemi formati da molti agenti o molte particelle nel caso della fisica che interagiscono tra di loro. L'analogia con i sistemi economici è molto forte, quindi tutta la parte di modellizzazione matematica viene mutuata, diciamo, principalmente dalla meccanica statistica. Inoltre, siccome sono calcoli molto lunghi e molto complessi, adoperiamo anche strumenti di calcolo molto potenti, come per esempio le griglie computazionali, in maniera da poter fare simulazioni Monte Carlo in tempi molto veloci e compatibili con i tempi di risposta che per esempio una banca si aspetta. Alla fine voi potete davvero essere utili a creare una nuova e più sicura finanza? Sicuramente la complessità dei sistemi finanziari attuali e anche dei prodotti di finanza strutturata impongono a fianco all'economista la presenza anche di cosiddetti quantitativi che possono essere matematici, ingegneri o anche fisici. Quindi in quest'ottica la presenza di persone che hanno profonda conoscenza di modelli matematici è sicuramente d'aiuto ad evitare diciamo catastrofi finanziarie. Grazie Roberto Bellotti, buon lavoro. Grazie a voi e un saluto ai radioascoltatori. Chi va per mare in queste settimane estive e in particolare nella zona della Liguria e in questo momento è in ascolto, per favore tenga conto di questo comunicato che ci arriva dall'Istituto Tetis. L'Istituto Tetis si interessa in particolare di presidiare l'area del santuario dei cetacei che è tra la Liguria e la Corsica, e questo comunicato dice: un'altra balenottera comune mutilata dall'elica di un'imbarcazione. È stata fotografata circa 2 settimane fa dal nostro istituto, 28 miglia al largo di Sanremo. L'animale è stato fotoidentificato, perché loro li tengono tutti negli archivi, e hanno già negli archivi degli animali che hanno subito delle collisioni, quindi sono segnate, e questo invece non fa parte dell'archivio, e quindi è venuto fuori che è un esemplare nuovo, quindi un altro incidente. Bisogna moderare la velocità nelle aree frequentate dai grandi cetacei, e quindi proprio in questa zona, mi raccomando. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, se vi era sfuggito l'Icaro del nylon, bene, il nostro racconto sulle macchine volanti inizia da qui, e poi vi guida Chiara Albicocco. Tra tanti premi, uno bisognerebbe darlo senz'altro a Gérard Maslin, un paracadutista il quale ha deciso di lasciare con un palmo di naso i suoi concittadini. Questo Icaro del nylon e della tela incatramata ha ideato una specie di tuta provvista di due ali e la sperimenta a suo rischio e pericolo emulando gli uccelli. Icaro del nylon e della vela incatramata. Questo video storico dell'Istituto Luce, datato 1961, ci introduce nel mondo dei temerari conquistatori del cielo, e di cui ormai si è perso quasi il conto. Nella mitologia greca, Icaro ed Edalo, imprigionati nel labirinto, la storia la conosciamo bene, che loro stessi avevano costruito, si dotano di ali di cera e di piume per liberarsi dalla prigionia. Poi l'epilogo sappiamo qual è. Sono infinite davvero le imprese degli uomini volanti, tra esiti piuttosto disastrosi e imprese un poco più fortunate. E queste storie sono state raccolte in un libro, Quei temerari sulle macchine volanti, piccola storia del volo e dei suoi avventurosi interpreti. È edito da Springer ed è scritto da Paolo Magionami, che è qui con noi questa sera, è un collega divulgatore scientifico, quindi gli do del tu. Ciao Paolo. Ciao, buonasera Chiara, ben trovata. Ecco Paolo, allora, come abbiamo appena sentito da questo audio storico, se ne trovano tanti anche in rete, la storia del volo è veramente piena di questi personaggi che vanno ovviamente dal mito fino alla realtà più concreta, bizzarra e quasi un po' folle. Sì, hai detto bene, dei pazzi scatenati. Sono nati praticamente, insomma, no, con l'uomo, quindi si sono forgiati con il passare del tempo, ma fino ad arrivare tranquillamente ai giorni nostri. Tu hai fatto riferimento al mito di Icaro, forse quello più famoso, più conosciuto da tutti per quanto riguarda, no, l'arte del volo, che come mito non ha in realtà nulla di documentato, viene riportato la prima volta nelle favole da Igine, poi da Ovidio nelle Metamorfosi, che eredi, scrittori, poeti l'hanno reso immortale. L'hanno reso il mito che è ora, no? Sì, esattamente. È stato sì. Il primo conquistatore del cielo. Conquistatore con un esito che è, appunto, come hai detto bene tu, ben conosciuto, ma assai comune purtroppo anche a molti. E beh, questo è un po' il rischio che si corre nel voler conquistare quello che finora era ignoto, no? Esatto, ignoto ma sotto l'occhio di tutti i giorni. Ce ne sono veramente tante di storie di pazzi scatenati, sì, che si sono buttati. Ce ne sono moltissime, e questa di Caro è una, ma ad esempio anche nei Vangeli apocrifi viene riportata la storia di un tale che si chiamava Simon Mago, poco dopo Cristo, nel 37 dopo Cristo. Bene, questo Simon Mago, una volta battezzato, ha provato a comprare il dono dello Spirito Santo. La richiesta, ecco, sia poi San Pietro parve un tantino esagerata, sì, e allora lui si rifece andando in giro per le varie corti di Roma, spacciandosi come un mago potente in grado di volare. Fu anche chiamato da Nerone, perché questo Nerone voleva mettere in scena la storia proprio di Icaro, e andò a cercare chi poteva fare all'occorrenza. Allora si presentò questo Simon Mago qua, dicendo: guarda, io riesco a volare, possiamo mettere in onda un bello spettacolo. E c'è Svetonio nel suo Nerone che ne dà una descrizione gustosissima. Lui dice: a un certo punto l'imperatore vuole farlo rappresentare nel circo la favola di Icaro con relativa caduta, non trovava nessuno disposto a lanciarsi dall'alto della torre appositamente costruita. Ecco, invece poi lo trovò. Lo trovò, arrivò questo Simon Mago, il quale, asserendo di aver scoperto il modo di poter volare, si offrì per fare la parte di Icaro. E che cosa è successo? È successo che mentre tutti si aspettavano di volerlo volare come un uccello, si vide invece cadere come un pezzo di piombo a piedi del podio imperiale, sfracellandosi al suolo e spruzzando il suo sangue fin sulle vesti dell'imperatore. Benissimo, non aggiungerei nient'altro. Mi sembra che abbiamo reso esattamente l'idea di quello che era la follia veramente di questi personaggi. E dal mito e da queste storie passiamo poi alla realtà, alle prime vere macchine che raggiungono il cielo, che sono i palloni, le mongolfiere. Palloni, esatto, e siamo alla fine del 1700. Il più leggero dell'aria dalle origini ai nostri giorni. Un tempo tutti i palloni erano destinati a far brutta figura come quello di questa bimba, fin quando nel 1766 un chimico, Enrico Cavendish, scoprì le proprietà dell'idrogeno. Ed ecco con questo gas più leggero dell'aria prender quota nel 1783 questo primo aerostato, una mongolfiera d'aria calda ed altri modelli riportati su antiche stampe. Ecco qui Paolo, in questo audio suggestivo del 1937, il commentatore pronuncia un po' uno strafalcione, no, in tema di palloni aerostatici, perché si deve fare una bella distinzione. È curioso questo documento, perché il commentatore dice esattamente una sciocchezza. No, lui fa riferimento all'idrogeno scoperto da Cavendish nel 1766. Dice, a un certo punto con questo poi i mongolfi hanno tirato su un pallone ad aria calda. No, se è idrogeno non può essere aria calda, e se è aria calda non può essere idrogeno. Ecco, perché esistono proprio i palloni aerostatici ad idrogeno e i palloni aerostatici ad aria calda. Sono due cose ben distinte, non sono la stessa cosa. Adesso abbiamo chiarissimo che sono due cose ben distinte, ma quando nel 1783 i famosi mongolfier conquistarono l'aria, lo conquistarono con un pallone ad aria calda, non a idrogeno. Poi nelle loro reazioni scrissero che avevano utilizzato un fantomatico gas, lo avevano chiamato gas, ma nessuno aveva idea di che cavolo fosse questo gas, no? Era semplicemente aria calda, ma il motivo per cui un pallone con la fiammella sotto, poi loro tra l'altro bruciavano di tutto, dalla carne putrefatta ai pezzi di legno per cercare di scovare la sostanza che rendesse il fumo più nero, più denso, il combustibile, sì, esatto. No, nessuno aveva veramente capito bene come cavolo funzionavano questi palloni ad aria calda. Di fatto, però, in quel giugno del 1783 il pallone è stato il primo oggetto di questi due fratelli a solcare il cielo e andare verso le nuvole. Ha aperto una nuova era. Ecco, e qui siamo tra il 700 e l'800. E adesso dove li dirigiamo questi palloni? Il vero problema era poi dare una direzione a queste macchine volanti. Ed ecco che nel 1900, esattamente il 2 luglio del 1900, quindi si sono appena celebrati i 110 anni del primo volo, del primo dirigibile. Il mostro dell'aria è la libellula. Il dirigibile tedesco Graf Zeppelin, in occasione del suo giro attraverso la Germania, ha sorvolato l'aeroporto di Tempelo, cremito di folla, offrendo anche lo spettacolo del lancio di un aeroplano senza motore che ha compiuto brillanti evoluzioni intorno al colosso. Paolo, questo audio storico del 1934, che celebra appunto il primo volo del dirigibile tedesco Zeppelin, e questo è stato proprio un evento, cioè il conte von Zeppelin è diventato praticamente un eroe nazionale. È diventato un eroe nazionale, i suoi dirigibili il simbolo di una nazione. Però si badi bene che lui ha dovuto tribolare un pochino, ha avuto la vita un po' complicata per assurgere, no, a questo ruolo qua di mito vivente per una nazione, perché niente meno lo chiamavano il matto sul lago. Ecco, non si risparmia nulla a nessuno. No, non si risparmia nulla a nessuno, neanche a un prussiano, un vecchio militare di carriera. Ecco, immaginiamolo come una stampa dell'epoca, tutto impettito con le mostrine ben in vista. A un certo punto, viaggiando per mezzo mondo, combattendo un po' qua e un po' là, aveva visto anche i palloni aerostatici all'opera. E il problema di queste cose era come cavolo si dirigono. È passato un secolo, no, per cercare di risolvere l'ingrippo, perché è una cosa bellissima da vedersi. Però se io volevo andare da un punto A a un punto B, ecco, certo, da qualche parte. Da qualche parte, se no, bello, ma inutile. Bene, ci è voluto veramente un secolo di anche di stramberie e sciocchezze varie, quello che lo voleva guidare con gli uccelli ammaestrati, voleva sparare colpi di cannone in modo tale che dalla navetta della mongolfiera, in modo tale che per reazione il pallone andava in una direzione. Ecco, e il matto sul lago nel 1900 era riuscito a coronare il suo sogno. Ha provato anche a brevettarlo, poi all'ufficio brevetti hanno detto: ma che è sta roba? Certo. L'istanza non la sappiamo trattare perché non è una locomotiva, no, è un aggeggio elettrico, no, è una ferrovia, no, e quindi fu respinta. Lui, testardo, duro, aveva anche a disposizione un gran patrimonio, no? Ecco, quella è stata la sua fortuna, no? Sì, direi proprio di sì, la sua fortuna è nel termine pieno. Perché? Perché con quello, perché queste robe costano un sacco di soldi, quindi bisognava investire un sacco di soldi. E la cosa anche curiosa, bella, perché dopo questo tentativo del 1900, con un dirigibile di 128 metri, quindi un gigante, una cosa enorme, le cose non andarono benissimo e lui perse gran parte del patrimonio. Allora, i tedeschi si erano così a poco affezionati a vedere questi colossi per aria, che a un certo punto intervennero con grandissima generosità donandogli un mare di soldi, milioni e milioni di marchi, cosa a quel tempo impensabile. E lui con quelli, intorno al 1906-1907, riuscì a tirar su un'azienda e a costruire veramente il dirigibile funzionale in grado di trasportare le persone e trasportarle anche con grande eleganza, insomma, quindi una specie di salotto. Più un vero e proprio business del volo. E gli Zeppelin sono diventati famosi tutto il mondo poi. E da queste macchine così leggere, nel Novecento, sempre nello stesso secolo, si passa anche alla macchina più pesante, i primi aeroplani, e di questo ovviamente non possiamo che non parlare dei fratelli Wright. Allora, sentiamo un attimo questa ricostruzione del 35, in cui si celebra il 31esimo anniversario del primo volo. Il 31esimo anniversario del primo volo dei fratelli Wright è stato commemorato con una significativa cerimonia. Un dirigibile ha lanciato una corona di alloro sul monumento innalzato ai due famosi pionieri e per l'occasione uno dei primi biplani che siano stati costruiti ha ritentato con successo le vie del cielo, mentre in tutti gli Stati Uniti quello che potrebbe chiamarsi il giorno di nascita dell'aviazione veniva celebrato con brillanti manovre aeree. Paolo, ovviamente anche questa storia dei fratelli Wright non è priva di curiosità, no? No, affatto. Sai, i fratelli Wright sono famosissimi, il simbolo, no, dell'uomo che riesce a conquistare la terza dimensione. È una gloria, una fama che si meritano completamente, pienamente, no? Hanno fatto quello che tutti gli altri non erano riusciti a fare o si erano un po' persi, naufragati. Hanno iniziato con gli alianti, giusto? Hanno iniziato gli alianti perché hanno avuto un'intuizione che pare tra banale o forse folle. E qual era? Cioè, loro dicevano che per poter volare bisogna saper volare, quindi trasformarsi in aviatori, il che pare assurdo perché se uno non c'ha ancora l'aereo. Per questo cominciarono ad applicarsi agli alianti, mettendosi letteralmente un aquilone sulle spalle, e poi a poco munito di motore, di attrezzi per governare inclinazione, beccheggio, e quindi da un punto di vista anche tecnico molto più raffinato di tutto quello che il panorama intorno, compreso quello che facevano gli europei, stavano cercando di sviluppare. Quindi proprio anche una bravura ingegneristica, geniale. Erano meccanici eccellenti, raffinati. Paolo, però il tuo libro è pieno di queste storie interessanti, potremmo parlarne veramente per giorni. Io voglio ricordare il titolo: Quei temerari sulle macchine volanti, piccola storia del volo e dei suoi avventurosi interpreti. Grazie Paolo e insomma alla prossima. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Franco Fabbro, neuroscienziato, ordinario di neuropsichiatria infantile all'Università di Udine e ospite qui con me questa sera. Buonasera Fabbro. Buonasera. Lei ha scritto un libro su tematiche che riguardano le neuroscienze. Ci legge un breve estratto di questo testo. Quis al bilengal, aie bilengal une persone che capisse e buine di fevelà do so plui len. Fin culi duce son da qua. Do là che un bel trop di filolix e linguisti son scombattus, il plui de volti spardiban, aie sulla question ceso ne leng. A queste domande son stati sdadi, li risquesti plui svariadi se strampalati. Ecco Fabbro, allora immagino che lei abbia anche scritto in altre lingue, in italiano, magari anche in inglese, come fanno molti ricercatori oggi. Beh, certo, sull'argomento del cervello plurilingue o bilingue. Prima di scrivere in friulano ho scritto un libro, Il cervello bilingue per l'astrolabio, e qualche anno dopo, nel 1999, un libro che è stato di riferimento per l'ambiente internazionale, The Neurolinguistics of Bilingualism, che riprende le stesse tematiche di questo testo, discusse in questo libro. Che lei ha scritto in friulano, che non è un dialetto, è una lingua. Il testo si occupa di sottolineare l'importanza nell'evoluzione di una persona, quindi di un individuo, di un umano, di una crescita in un ambiente bilinguistico. E poi dopo, più avanti nell'intervista, sentiremo anche la voce di una sua editrice, parleremo dell'importanza, insomma, di editare anche in questa lingua. Però allora ci dica prima di tutto qualcosa sul bilinguismo e poi sul bilinguismo con il friulano. Ma il bilinguismo è una caratteristica universale degli esseri umani, in genere in tutte le culture cosiddette originali le persone conoscono più di una lingua per comunicare con i popoli vicini, e solo nell'Occidente e negli ultimi secoli si è pensato che un'educazione monolingue sia più vantaggiosa di un'educazione bilingue. L'educazione bilingue invece, sono stati fatti tutta una serie di studi, soprattutto all'inizio in Canada, hanno dimostrato che i bambini, se crescono conoscendo due o più lingue, non hanno nessuno svantaggio e anzi sono aperti alla possibilità di confrontarsi con altri mondi, altre realtà, certo. Sì. Quindi bilingue è una persona che parla, che capisce, parla, si esprime in due o più lingue. Senta, scrivere cose di scienza in una lingua come il friulano, che cosa significa? Vantaggi, svantaggi? Che difficoltà ha incontrato, se le ha incontrate? Ma diciamo, mi mancava, prima di rispondere a questa domanda, di definire cos'è il bilinguismo friulano italiano. Certo. I friulani sono da sempre bilingui perché parlano una parlata locale già dal secondo, terzo secolo d.C. e si sono confrontati con le culture più disparate, quella veneta, quella austriaca, quella italiana, e a casa imparavano e parlavano il friulano, e a scuola oppure nella comunicazione hanno dovuto imparare l'italiano, il tedesco, il veneto. Quindi sono tutti friulani, ad esclusione delle ultime generazioni, sono per definizione bilingui. E in genere la seconda lingua veniva dai friulani, come nel mio caso, appresa alla scuola elementare. E a casa si continuava a parlare in friulano, e dal 1600 in poi alcuni autori hanno cominciato anche a scrivere in lingua friulana, poesie, racconti, canti, e quindi piano piano si è sviluppata anche una letteratura friulana prevalentemente poetico-letteraria. Sì. Solo negli ultimi tempi, visto l'importanza, l'ultimo secolo, il secolo scorso, l'importanza che ha avuto la scienza e la tecnologia, si è cominciato a ovviamente discutere, parlare anche di questioni scientifiche in friulano. Nel mio caso, per esempio, io mi sono laureato in medicina e anche mio fratello è laureato in medicina, noi in casa parlavamo friulano, quindi per tutti gli anni della formazione io ho parlato di questioni di medicina, di neuroscienze, in friulano con mio fratello oppure con i colleghi medici friulani. Trovando i vocaboli, è difficile pensarlo, oppure anche creandoli, inventandoli al momento? No, scrivere in una lingua minoritaria, no, come il friulano, di questioni scientifiche, da una parte più complesso e da una parte più semplice che scrivere in italiano, riporto la mia esperienza. più complesso perché bisogna riflettere appunto sui termini che non esistono ancora nella lingua, ma sono termini che in genere provengono dall'inglese. E quindi il friulano e l'inglese hanno molte caratteristiche in comune, soprattutto per esempio non usano vocali o usano molto raramente vocali al termine delle parole, per cui spesso una parola in inglese diventa immediatamente traducibile con una fonologia differente in friulano. Mi pare anche che abbia questo plurale con la S, o sbaglio? Ha un plurale con la S come l'inglese, in più come l'inglese è obbligatorio fissare sempre il soggetto e spesso il soggetto deve essere duplicato in friulano, ovvero si dice per esempio io vado a casa, e quindi questo rende il discorso, introduce un modo di scrivere che simile a quello scientifico. Se vuoi, scientifico perché la lingua inglese è quella più utilizzata, ma anche in ogni frase deve essere specificato chi è il soggetto e le frasi devono essere anche più corte possibili, mentre per esempio l'italiano usa frasi molto più lunghe e che difficilmente sono apprezzate in ambito scientifico. Quindi il paradosso è che, vede, quante immagini possono essere assolutamente errate, diventa più facile scrivere scientificamente in una lingua come il friulano. Sì, questi sono gli aspetti linguistici. Poi c'è anche un aspetto di personalità, diciamo. Trovarmi a scrivere un libro in friulano mi sembrava un'impresa, scientifico, intendo un libro scientifico in friulano, mi sembrava un'impresa quasi impossibile, e ricordo che alcune riviste mi avevano cominciato chiedendomi degli articoli scientifici in friulano e io avevo riservato per questi articoli delle giornate, 2 o 3 giorni per scrivere un articolo. Poi quando ho cominciato a scrivere questi articoli che sono diventati alcuni capitoli del libro, mi sono accorto che mi bastavano poche ore, che era molto più facile di quanto pensassi, perché era la mia lingua madre. Fabro, grazie. Mi ricorda il titolo allora del libro? Il libro si intitola Il Chiaf dai Furlans. Che il Chiaf vuol dire la testa, mi pare, la mente. Vuol dire, sì, la mente dei friulani. KV Edizioni. E adesso, Fabro, andiamo a sentire le opinioni, andiamo a sentire che cosa ci dice una delle vostre editrici. Grazie, buonasera. Arrivederci, buonasera. Alessandra Kersevan, buonasera. Buonasera. Lei è titolare della KV, la casa editrice basata a Udine, sì, che è editrice del libro di cui abbiamo appena parlato, però voi avete una linea editoriale ampia su svariate tematiche, tutta in friulano. Ecco, io le chiedo una prima cosa. Quando di questi tempi si parla di valorizzazione, importanza, difesa del dialetto, si entra dentro, ci siamo perfettamente capiti, in una polemica, in una querela abbastanza complessa. Come siete dentro voi questa cornice di attualità? Intanto bisogna dire che la KV è nata nel 1987 proprio con il primo libro che abbiamo pubblicato, era un libro didattico in friulano, quindi abbiamo cominciato in tempi non sospetti, totalmente fuori rispetto a questa querelle, perché noi credevamo e crediamo nell'importanza della varietà in tutti i campi, anche in quella linguistica. Quindi il friulano è una lingua che esiste, che ha una sua storia, un suo passato, una sua letteratura, una sua validità nella vita quotidiana delle persone. Ci sembrava importante che venisse mantenuta e valorizzata anche dal punto di vista editoriale. Del resto, e questa è una cosa di cui ci si dimentica nel corso di queste discussioni che vengono fatte sull'importanza o meno delle lingue locali, eccetera, nella loro valorizzazione, bisogna ricordare che questo è previsto da uno specifico articolo della Costituzione repubblicana. È vero. Dalla resistenza, che è l'articolo 6, che riguarda la tutela delle lingue minoritarie esistenti sullo Stato italiano. Oggi naturalmente si potrebbe tutt'al più discutere se il numero delle lingue che erano state individuate a suo tempo, al tempo della Costituzione, e che poi sono state riconosciute con la legge dello Stato del 1999, la 482, sono soltanto quelle che devono essere tutelate, o se dovremmo aggiungerne altre. Le altre, sì. Però questa è una discussione che va fatta, però sicuramente è importante che nello Stato italiano, che purtroppo ha avuto un passato, una storia di monolinguismo, si valorizzino invece le culture e le lingue locali, perché sono una ricchezza dell'Italia. Si dice spesso, non so, che l'Italia è un grande paese proprio perché ha avuto una civiltà passata di comuni, di regioni, di differenze, e quindi si parla della ricchezza culinaria, per esempio, e non si tiene conto che senza il sostrato linguistico di questa cultura perderebbe molto della sua varietà e della sua ricchezza. Quindi... E non sarebbe nemmeno arrivata in molti casi, sarebbe molto diverso. Certo. Sì. E quindi diciamo che oltre a un discorso di diritti c'è anche un discorso di convenienza per tutta la nazione italiana. Ecco. Alessandra Kersevan, grazie, buonasera e auguri per la vostra casa editrice. Grazie a voi. Eccoci alla soluzione del quiz, che aveva all'inizio questa domanda: ha più vertebre cervicali il topo o la giraffa? Tutti i mammiferi, tranne i lamantini e i bradipi, hanno 7 vertebre. I bradipi ne hanno 6 e già si vede che fanno più fatica a girare la testa. Più vertebre si hanno e più il collo si gira. Una specie di cigno batte tutti, è il cigno muto, con 25 vertebre. Il gufo non scherza, perché la sua testa può ruotare di 270 gradi, ha 14 vertebre cervicali. Questa capacità di ruotare la testa nel gufo è fondamentale, perché deve compensare un bel handicap: non può muovere le pupille degli occhi e quindi è solo girando la testa che riesce a perlustrare l'ambiente. Ed è con il dramma del gufo che si chiude questa puntata di Möbius. Buon proseguimento di serata a tutti e tutte, e ci risentiremo, se volete, fra 7 giorni. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.